11 nell'harem del re. Il caldo era ancora intenso, anche se ormai era in arrivo la stagione dei monsoni. Di notte lui se si agitava nel letto chiamando: Aier sujok, Bibi, Aier sujok! Acqua fredda, Bibi, acqua fredda! E Anna aveva il fiato corto per la mancanza d'aria. Aveva la sensazione che l'aria in quella casa fosse come la vita da cui era abitata, pesante e soffocante, e che una casa sua sarebbe stata più fresca. Ma che cosa poteva fare? Il re era tornato da Pecciaburi e non l'aveva mandata a chiamare. Finché ciò non succedeva, non poteva presentarsi. Non sarebbe tornata a Singapore ammettendo la sconfitta. Doveva fare qualcosa, ma non c'era niente da fare. Era in Siam da 2 mesi e la mancanza d'azione la stava consumando. Ah, se solo non ci fosse stato così caldo, se solo avesse potuto lavorare per tenere occupata la mente, se solo avesse avuto una casa sua, se solo. Poi la notte finiva per lasciare il posto a un'altra giornata pesante. Finalmente un mattino venne mandato al palazzo del Cralaome il signor Hunter a dirle di prepararsi a cominciare immediatamente le sue mansioni a palazzo. Stavolta l'accompagnerà la sorella del Cralaome, Lady Piam, le spiegò. Passerà a prenderla domattina in barca. La sorella del Cralaome era una donna grossa dall'aspetto materno che salutò Anna con un buongiorno, signore. Buongiorno, rispose Anna. È stata gentile a venirmi a prendere. Vogliamo andare? La signora ripeté gentilmente buongiorno, signore. Prendendolo per un sì, Anna si mise il mantello, la cuffia e i guanti. Bibi sistemò i riccioli di Louis sotto il cappello e raccolse i libri che erano stati preparati con cura da settimane. Lady Piam li condusse alla barca, camminando lentamente. Dietro di lei veniva la processione di schiave che l'accompagnavano sempre. Dopo che il gruppo si fu seduto nella barca coperta, Lady Piam vide i libri e con interesse ne prese uno. Quando vide l'alfabeto, diede ad Anna un'occhiata di compiaciuta sorpresa e iniziò a ripetere le lettere, indicandole col dito, mentre Anna l'aiutava. E per un po' sembrò grata e divertita. Ben presto chiuse il libro e porse ad Anna una mano grassoccia, dicendo: Buongiorno, signore. Anna rispose: Buongiorno, e dopo averci pensato un attimo aggiunse: Signore. Mentre la barca procedeva lentamente lungo il fiume, sua signoria ripeteva il saluto ogni volta che la sua attenzione si posava su Anna, il che accadde almeno una dozzina di volte. Attraccarono a un vistoso padiglione che sembrava vecchio e in cattivo stato, che si allungava sul fiume. Parte della struttura a piani che formava il tetto era però rallegrata da colorate mattonelle nuove. Alla sottile signora inglese sembrò che i pilastri marcescenti si lamentassero e protestassero contro quell'anacronismo architettonico che metteva giovani teste sopra delle spalle consumate dal tempo. La fantasia la divertì e la distrasse. Attraverso parecchi passaggi coperti arrivarono a una staccionata sorvegliata dalle Amazzoni. Erano donne forti, un po' più alte di Anna, con i capelli corti secondo l'usanza del paese. Evidentemente conoscevano bene la vecchia perché aprirono rapidamente la porta e poi si prostrarono con le mani davanti alla faccia finché il gruppo fu passato. Una camminata di 20 minuti sotto il caldo le portò alle mura interne che isolavano la città proibita, Kangnai interno dal resto del palazzo. Una curiosa porta ovale di ottone lucido si aprì senza rumore introducendola in un cortile. Il pavimento del fresco padiglione aperto in cui le condusse Lady Piam era di marmo. Le donne all'interno del padiglione e nelle sue vicinanze si alzarono per salutare Anna. Sembravano appartenere a un rango superiore perché la sua guida si prostrava davanti a loro. Ad Anna era stato detto che parecchie occupavano posizioni importanti nell'harem. Quando le formalità furono esaurite, iniziò una conversazione animata. Sul pavimento di marmo erano seduti o coricati dei bambini, mentre i neonati dormivano o giocavano tra le braccia delle bambinaie. Quasi subito comparvero degli schiavi che reggevano vassoi d'argento pieni di cibi strani, ma dall'aspetto invitante. Ad Anna sarebbe piaciuto assaggiarli, ma non c'erano forchette o cucchiai e lei non riusciva a usare le dita come le altre donne, perciò lei e Louis dovettero accontentarsi delle arance. Inoltre temeva che il suo rifiuto venisse considerato uno sgarbo, soprattutto se il cibo era stato preparato in suo onore, ma nessuno le prestò la minima attenzione. Lady Piam e le donne dell'harem mangiarono ridendo e chiacchierando senza uno sguardo nella sua direzione. Quando lei e lui si iniziarono a sbucciare l'arancia, i bambini si avvicinarono interessati e divertiti. Erano attraenti, con la pelle color pergamena, gli occhi di un marrone liquido e i corpi ben fatti. Ma quando Anna finì l'arancia e tese loro la mano, i sorrisi scomparvero e scapparono via. Presto comparve Lady Talap, che durante il loro primo incontro aveva colpito Anna così profondamente. Dopo aver salutato con effusione la sorella del Kralahome e aver parlato con lei alcuni minuti, si stese sul pavimento di pietra, usando come cuscino la sua scatola d'oro per il Betel. Con un rapido movimento verso il basso, quasi il contrario del gesto inglese, fece cenno ad Anna di avvicinarsi e sorrise con la dolcezza che la contraddistingueva. Anna si alzò, si diresse verso di lei e si sedette accanto alla graziosa figura rilassata. Allora, Lady Talap disse in un inglese pittoresco ma chiaro: «Sono contenta di vedere lei, è molto tempo che non vedo. Perché è venuta così tardi?» Sembrava che non si aspettasse alcuna risposta. Anna le rivolse parecchie frasi semplici, ma lei scosse la testa ridendo. Quando si rese conto che l'insegnante era davvero delusa e imbarazzata dal fallimento del tentativo di comunicare, Lady Talap sorrise di nuovo con lo stesso sorriso evanescente e iniziò a cantare. «C'è una terra felice, molto, molto lontano, dove i santi vivono in gloria.» E poi disse: «Penso a lei molto spesso. In principio Dio creò il cielo e la terra.» Anna la guardò stupita. Se stava cercando di dimostrare la sua conoscenza dell'inglese, il tentativo a dir poco era meritevole ma sconnesso. Louis, con la testa appoggiata sul grembo di Anna, fissava la donna con aperta curiosità. Parlava inglese o no? Seguì un lungo silenzio che Anna trovò logorante. Non riuscì a trovare un modo per dimostrare la sua amicizia, anche se lo desiderava, perché doveva farsi degli amici se voleva che il suo lavoro avesse successo. Ma Lady Talap giaceva a lunga distesa, ignara del tormento di Anna, e fissava con sguardo spento le rosette dorate e intarsiate sul soffitto del padiglione. Dopo circa mezz'ora, Lady Talap si inginocchiò e si guardò cautamente intorno. Non c'era nessuno nelle vicinanze e lei molto rapidamente si avvicinò ad Anne e le sussurrò all'orecchio: «Cara Mamma Thun, le voglio bene, la penso. Il suo bambino morto viene al palazzo, piange, le voglio bene.» E tornò a coricarsi, poi si mise il dito sul labbro, lo tolse e iniziò di nuovo a cantare con voce da soprano: «C'è una terra felice, molto, molto lontano.» Anna era silenziosa e attenta. Le maniere furtive di Lady Talap improvvisamente acquistarono significato. All'improvviso capì e ne fu profondamente toccata. Questa donna infantile, rinchiusa dietro le alte mura della città proibita, stava cercando di mandare un messaggio al mondo esterno. Voleva comunicare alla signora Mattoon la simpatia per la perdita del figlio, esprimerle il suo affetto e farle sapere che ricordava ancora quello che le aveva insegnato. Aveva elaborato questo modo unico per esprimere affetto e conforto alla donna americana che considerava amica. Che brava! Com'era umana! Anna sorrise e fece un cenno col capo. Lady Talap le rispose. La eccitava sapere che Lady Talap si era fidata di lei per trasmettere questo messaggio, sicura che non lo avrebbe svelato al re. Era una questione tra donne, qualcosa che il cuore di una donna capiva, e la donna siamese si era fidata dell'inglese. Anna guardò Lady Talap con rinnovato interesse, nonostante fosse imprigionata da mura e tradizioni che la rendevano poco di più che un trastullo per il re, conservava il segno della personalità della signora Mattoon. Anna iniziò a sognare. Quante menti incatenate da vecchi ceppi avrebbe liberato? Arrivò mezzogiorno, poi il pomeriggio. Ad Anna pareva di essere entrata in un mondo incantato. Sembrava impossibile che una passeggiata di 20 minuti potesse portare nel trambusto di Bangkok. Fu destata da un leggero rumore proveniente dalla galleria coperta. Una vecchia comparve, reggendo un candelabro d'argento, le cui braccia reggevano 4 candele accese. L'effetto fu istantaneo e sorprendente. Tutta l'indolenza assonnata del pomeriggio scomparve. Le candele rappresentavano l'offerta che invariabilmente il re mandava alla cappella reale di Wat Phra Kaeo quando si svegliava dal riposino, e significava che la sua comparsa era imminente. Entro pochi minuti si svolse una processione disordinata. Centinaia di donne e bambini, alcuni pallidi e abbattuti, altri radiosi e splendenti, altri ancora di malumore e induriti, tutti che si muovevano tranquillamente in un'unica direzione. Nessuno si fermò a parlare, nessuno indugiò né si guardò alle spalle. Lady Talap ricomparve, adesso con un abito di seta azzurra che costituiva un bel contrasto con la sua pelle olivastra. Non si fermò a parlare, non guardò nemmeno Anna, ma corse dietro le altre con una certa ansiosa alacrità sul giovane viso liscio. Era la favorita, ma altre lo erano state prima di lei. Anna incominciò a sentirsi a disagio mentre la sua prova si avvicinava. Era decisa ad affrontare personalmente con il re la questione della casa. Nella sua lettera le aveva promesso una casa di mattoni, ma come aveva detto il Cralahome quella prima notte, che non avrebbe mai dimenticato, Sua Maestà non può ricordare tutto. Tirò fuori le due lettere del re che aveva ricevuto a Singapore e le rilesse. Oltre alla lettera che era stata indirizzata a lei personalmente, avevo una copia della lettera del re al signor Tan Kim Ching, che era molto dettagliata. Bangkok, 26 febbraio 1862. Per quanto riguarda la signora che si chiama Leon Owens, che si è compiaciuto di presentarci per l'impiego di insegnante, avevo rifiutato la sua candidatura perché richiedeva un salario mensile più alto di quanto pensassi fosse adatto e perché desiderava vivere alla missione, lontana dal palazzo, cosa che potrebbe creare problemi dovendola accompagnare avanti e indietro. E poiché essendo così vicina alla missione, temo che potrebbe voler convertire i nostri figli al cristianesimo più che istruirli nella lingua e letteratura inglesi. Non abbiamo bisogno di insegnanti di cristianità, che sono abbondanti. Ma se la signora Leon Owens accetta un salario mensile di $100 e promette di vivere a palazzo o nelle vicinanze e si limiterà a insegnare la lingua e la letteratura inglese, saremo lieti di averla come insegnante, dal momento che lei la tiene in alta considerazione. Quando verrà qua, le darò una casa di mattoni nelle vicinanze del palazzo dove potrà vivere con il marito o la servitù senza pagare affitto e senza che il suo stipendio mensile di $100 sia diminuito. Se successivamente mi accorgerò che il suo lavoro è più grande di quanto ci si aspettava o che i suoi allievi aumentano o apprendono molto velocemente, la ricompenserò con più tempo libero o con uno stipendio più alto. Per favore, la metta al corrente e le faccia capire che sono sincero. Le lettere erano amichevoli, e allora perché la sua apprensione? Anna le mise via e sollevò Louis. La disordinata processione di donne e bambini si era fermata. Lei si alzò per aspettare l'arrivo del re. Rimase in piedi per un'ora, aspettando che comparisse in ogni momento. L'attesa era snervante e col passare del tempo la sua ansia aumentava. Doveva farsi forza per affrontare l'impatto con la personalità irascibile del re, anche se non sapeva bene perché. Dopotutto l'accordo era chiaro, rimanevano solo da definire i particolari. È vero che lui aveva vinto l'incontro precedente, ma lei non aveva perso, aveva conservato i suoi innocenti segreti. Poi ci fu un affrettarsi frenetico. Aiutanti, governanti, schiavi scomparvero dietro le porte, dietro le colonne, sotto le scale e alla fine, preceduto da un colpo di tosse, il re fece la sua comparsa. Non sorrideva, si avvicinò al gruppetto tossendo forte e con ira. Era una premessa minacciosa al colloquio. Louis, sempre sensibile all'umore delle persone attorno a lui, seppellì la faccia tra le pieghe dell'abito della madre, per evitare di trovarsi davanti questa persona che si annunciava in modo così bizzarro. Il codazzo di donne e bambini che seguiva il re si prostrò quando lui si fermò davanti alla sorella del Cralahome. Anche lei si era buttata a terra. Solo la signora inglese, suo figlio e il re erano rimasti in piedi. Il re le strinse la mano con freddezza e guardando lui, se la cui faccia non si vedeva, osservò con indifferenza: «Che bei capelli!» Poi si girò verso la sorella del Cralahome e la impegnò in una lunga conversazione. Anna aspettò, ma il re non le prestò più attenzione. Parecchie donne le si avvicinarono, sibilando qualcosa. Anna non capiva, quindi mantenne gli occhi fissi sul re, nello sforzo di cogliere il senso della conversazione con Lady Piam. Non era un viso particolarmente piacevole, anche se i lineamenti erano regolari e la carnagione chiara. Il naso era largo alla base, gli occhi erano piccoli e duri. La metà destra della faccia sembrava stare su un piano leggermente diverso e il labbro inferiore cadeva in modo particolare, come se il re avesse subito una paralisi parziale, ma era una faccia forte, imperiosa e acuta. Il sibilo delle donne interruppe di nuovo il suo studio. Le guardò con curiosità, ma loro, sui gomiti e sulle ginocchia, tenevano gli occhi a terra. Il sussurro si fece più insistente. Evidentemente di qualunque cosa si trattasse, la consideravano abbastanza importante da correre il rischio di un rimbrotto dal loro padrone. Poi ci fu silenzio, ma all'improvviso, senza parlare, quattro di loro allungarono le mani e si impadronirono della sua gonna. Prima che lei potesse indovinare cosa avevano in mente, si misero a tirare vigorosamente. Il movimento fu così veloce che lei perse l'equilibrio. Trionfanti seguitarono a tirare e lei cadde lunga distesa sul pavimento, stupefatta, col bambino vicino a lei. Aveva gli occhi colmi di lacrime, di dolore e di rabbia. Con furia lottò per rimettersi in piedi, ma le donne non mollarono la presa. Finalmente il re si accorse della situazione, disse alcune rapide frasi in tono insolente e ad Anna, sgualcita e sconvolta, fu permesso di riprendere la posizione eretta. Il re si rivolse alle donne e loro strisciarono un po' all'indietro, lasciando Anna libera di muoversi. Poi, con un cenno della mano, il re continuò: «È nostro piacere che lei risieda nel palazzo con la nostra famiglia». Ancora parzialmente scossa per la caduta, Anna ammutolì: «Vivere qua? Ma come poteva vivere dove la tirannia era così forte che si poteva annusare? E l'ombra della schiavitù così profonda che persino la luce del sole era piena di riflessi scuri? Vivere dove non poteva trovare nessuna intimità e nessun sollievo dalla vita dell'harem, nessuna libertà di movimento, dove ogni cancello era controllato e ogni mossa osservata da spie, dove non poteva avere un posto suo in cui poter allevare il ragazzo secondo le amate tradizioni inglesi?» Serrò con fermezza le labbra tremanti. «Mai! Vostra Maestà», disse con una tranquillità che non sentiva, «per me è impossibile vivere qua. Sarò lieta di lavorarvi durante le ore di lezione, ma ho bisogno di una piccola casa mia fuori delle mura del palazzo, dove potermi ritirare dopo aver portato a termine i miei compiti. Non parlo ancora la lingua e mi sentirei come una prigioniera infelice dopo la chiusura dei cancelli alla sera». Un sospetto improvviso comparve negli occhi del re. «Dove va alla sera?» volle sapere. «Da nessuna parte, Vostra Maestà», rispose lei indignata. «Come osava? Sono un'estranea qua». «Allora perché obietta che si chiudano i cancelli?» «Vorrei che Vostra Maestà ricordasse che nella sua graziosa lettera mi aveva promesso una casa in mattoni vicino al Palazzo Reale, non dentro». Lui si avvicinò a lei a piccoli passi, la faccia rossa e contorta per la rabbia improvvisa. «Non so niente, ma è la mia serva». Il tono si alzò fino a diventare stridente. «Ed è nostro piacere che lei viva al palazzo e lei deve obbedire». Le ultime tre parole le furono urlate in faccia. Lei indietreggiò un po' tremante e per qualche secondo non trovò le parole né la forza per pronunciarle. Poi si fece coraggio e riuscì a parlare con una voce così fredda e calma da esserne sorpresa lei stessa. «Vostra Maestà forse ha dimenticato che non sono una serva, ma una istitutrice. Sono pronta a obbedire agli ordini di Vostra Maestà per quanto riguarda i miei impegni verso la sua famiglia, ma oltre a quello non posso promettere obbedienza». «Vivrà a palazzo!» ruggì il re. Poi il ruggito cessò. Il rossore scomparve dalle guance, sbatté gli occhi rapidamente e ripetutamente e proseguì con tono moderato: «Le darò delle schiave che si occuperanno di lei. Inizierà la scuola reale in questo padiglione il prossimo giovedì. È il giorno migliore secondo le valutazioni dei nostri astrologi». Anna trasse un profondo sospiro. Finalmente contrattava. Stava ottenendo qualcosa. Schiave. Se avesse saputo quanto aborriva la schiavitù con ogni particella del suo essere. Astrologi. Ecco il motivo del ritardo nell'avviare la scuola. Gli astrologi non avevano trovato un giorno propizio. Il re si allontanò come se la cosa fosse stata risolta e iniziò a dare ordini con suoni intermittenti a qualche vecchia. Louis, che non riusciva più a controllarsi, piangeva con grossi singhiozzi. La sorella del Cralahome alzò la testa e gli gettò parecchie occhiate severe. Anna sentiva le lacrime agli occhi. Dopotutto, chi era lei? Una fragile inglese, per contrapporsi a questo despota spietato e ai suoi tirapiedi striscianti. Non sarebbe vissuta a palazzo, ma non era bene fermarsi e scoppiare a piangere senza dignità. Avrebbe mostrato debolezze e non ci si poteva mostrare deboli. Non avrebbe aspettato che il re terminasse il colloquio. Meglio sgarbata che debole. Prendendo Louis per mano, si girò e tornò rapidamente verso la porta di Ottone. La sorella del Cralahome le venne dietro saltellando, terribilmente furiosa, tirandole il mantello, agitando il dito davanti alla faccia di Anna e gridando «Mai di! Mai di!». Anna conosceva abbastanza siamese per capire che significava «male, male». Ma lei continuò a camminare, esteriormente serena, verso il cancello che portava al fiume, ignorando la donna agitata al suo fianco. Suo padre e suo marito erano stati soldati della regina. La prepotenza con lei non funzionava. Per tutto il viaggio in barca continuò a sentire altri «mai di, mai di». Ma lei aveva deciso. Al suo arrivo chiuse la porta a chiave con decisione. L'ira aveva scacciato la paura. Se costretta, avrebbe rinunciato al nuovo lavoro. Non avrebbe vissuto al palazzo. 12. La nuova casa. Anna mandò Louis da Bibi per il bagno serale e si sedette a riflettere. Ma più pensava e più le diventava chiaro che il disgraziato colloquio con il re non avrebbe potuto essere evitato. Era un personaggio donchisciottesco e imprevedibile, e chi lo circondava era pronto ad adattarsi ai suoi capricci. Provò una fitta di dolore al ricordo della casa relativamente felice che aveva lasciato per venire nel Siam, ma accantonò il dolore e si concentrò sul problema da affrontare. Senza volerlo si era trovata in conflitto con il re e fin dall'inizio. Per ora non poteva aspettarsi di avere la meglio su di lui, sul problema della casa, a meno che... Ma sì, naturalmente doveva chiedere aiuto al Cralahome. Avrebbe cercato di vederlo al più presto. Più lo conosceva e più le sembrava enigmatico, ma si rendeva conto del potere che esercitava nel regno. Era evidente che quelli che venivano in contatto con lui lo temevano e lo amavano al tempo stesso. Lo temevano per una sorta di forza sinistra e soffocata. Lo amavano perché aveva fama di essere giusto, di avere un senso della giustizia rigoroso, mai offuscato dalla passione come il re. Anna non capiva con quali mezzi otteneva pronta obbedienza ai comandi impartiti a voce bassa, né come controllava il paese con briglie che sembravano sciolte. Era circondato da una curiosa aura di grandezza. Anche nel primo mese trascorso in Siam, Anna aveva visto che la sua influenza e il suo prestigio penetravano in ogni anfratto del vasto regno. Non passava settimana, nemmeno giorno, che ufficiali che provenivano da remoti angoli del paese non si presentassero a lui. E ogni settimana che passava era sempre più colpita dall'omaggio che i siamesi gli tributavano e dalla considerazione in cui veniva tenuto dagli europei. Il signor Thomas George Knox, l'interprete del consolato britannico, che conosceva profondamente il Siam per averci abitato a lungo, le aveva detto che era stato il Cralahome a mantenere il re sul trono, nonostante una cospirazione per soppiantarlo con il secondo re e suo fratello, più popolare e cortese. Avrebbe di nuovo fatto appello al Cralahome, facendo affidamento sulla sua rettitudine perché il re mantenesse l'impegno preso nei suoi confronti. Come in risposta a quei pensieri, il signor Hunter bussò alla porta e le chiese se poteva esserle utile. «Oh sì, signor Hunter, se il Cralahome è libero, mi piacerebbe molto parlare con lui di quanto è successo a palazzo nel pomeriggio». In pochi minuti, il signor Hunter tornò dicendo che il Cralahome l'avrebbe ricevuta nel suo salotto privato. Fumava la pipa davanti a un mucchio di documenti. «Sì?» raccolse lui, guardando in su e togliendosi la pipa di bocca. «Vostra Eccellenza ha saputo dell'udienza di oggi pomeriggio?» Un leggero sorriso mitigò l'impassibilità del suo viso, annuì. «Niente era più lontano dai miei pensieri che una conversazione così sgradevole con Sua Maestà, ma è impossibile per me e mio figlio abitare a palazzo. Come sa, c'è stato uno scambio di lettere prima che venissi assunta». Estrasse le due lettere che aveva portato con sé e le posò davanti a lui. «Ho accettato le condizioni del re e mi aspetto di attenermi alla mia parte dell'accordo, ma sento che anche Sua Maestà è obbligato a rispettare le condizioni per cui ho deciso di chiudere la mia scuola a Singapore e venire qua». Il Cralahome raccolse le lettere e le lesse con attenzione. Quando le posò, si rese conto che era riuscita a risvegliare il suo interesse. «Che obiezioni ha a vivere a palazzo?» disse lui. Anna esitò. Come poteva fargli capire il suo bisogno di privacy? Era qualcosa che i siamesi non sembravano volere. «Vostra Eccellenza», iniziò lentamente, «ho bisogno di una casa tranquilla dove essere libera da interferenze quando la mia giornata di lavoro è finita. Il mio lavoro sarà difficile, Si interruppe alla ricerca del modo migliore di spiegare quello che temeva fosse incomprensibile all'uomo che aveva davanti. Non c'è intimità a palazzo. Questo è il motivo per cui voglio una casa fuori delle mura, dove potermi ritirare alla sera e mi possa essere assicurata pace e tranquillità. E poi i cancelli del palazzo vengono chiusi presto, come sa, gli europei si riuniscono per il tè e per la cena. Desidero essere libera di andare e venire, voglio un posto in cui ricevere i miei amici europei. Credo di avere diritto a un luogo in cui vivere, in cui essere libera di seguire le tradizioni della mia gente senza offendere nessuno. Il Kralahome ascoltò attentamente, poi rivolse parecchie domande in siamese al signor Hunter. Molto bene, signore, disse infine, cercherò di sistemare le cose. Qualche altro giorno si trascinò lentamente. Anna insegnava a Boy, così si chiamava Luis nell'intimità. Studiava il siamese, andava a trovare Kun Ying Fan e faceva tutto quanto poteva per alleviare la monotonia dell'attesa. Le ragazze dell'harem continuavano a calare su di lei come locuste, ma lei sopportava i loro saccheggi, pensando che con il Kralahome dalla sua parte l'attesa non sarebbe durata molto. Poi, un mattino, quasi una settimana dopo, il signor Hunter venne a comunicarle che il re aveva consentito alle sue richieste. Era stata trovata una casa e un messaggero l'aspettava alla porta per condurvela. Se lei voleva occuparla quel giorno stesso, più tardi avrebbero mandato a prendere le sue cose. La casa, aggiunse, era arredata. Anna era fuori di sé dalla gioia. Indossò un abito da passeggio e si affrettò a uscire con Louis, lasciando Bibi e Monshi a preparare i bagagli. Gabriel, un uomo anziano, la stava aspettando. Il suo sguardo torvo raffreddò un po' il suo entusiasmo, ma lui si avviò speditamente senza una parola e lei e Luis gli si misero alle costole. Mentre uscivano dal palazzo, incontrarono il Kralahome che entrava da un cancello. Li studiò con un sorriso ambiguo mentre salutava. Buongiorno, signore. Era divertito per l'espressione sollevata sul viso di Anna, o era la sua solita aria di onniscienza? Anna allontanò i dubbi e si sistemò insieme a Luis sotto la tettoia di legno al centro della barca. L'aspetto di Anna sembrava procurare enorme divertimento ai 10 vogatori che stavano ai remi. Attraversarono il fiume fino al padiglione del re e poi sbarcarono. La guida imboccò rapidamente una strada sporca e tortuosa. Loro la seguirono e in mezz'ora arrivarono a due alti cancelli e passarono in una strada ancora più stretta e più sporca. Dal forte odore che li sopraffece, capirono immediatamente che si trovava nel mercato del pesce. Il tanfo impediva di respirare, il sole scottava e l'aria era pesante, la polvere li soffocava, il terreno provocava vesciche ai piedi. Si stupirono parecchio quando la guida si fermò improvvisamente alla fine di un orribile vicolo dove la strada era interrotta da un muro con una porta. La guida fece loro segno di seguirla sui tre scalini di mattoni rotti da cui vi si accedeva. Poi, da una tasca della giacca sdrucita, estrasse un'enorme chiave che infilò nella serratura arrugginita e cigolante. Di certo non era questa la loro destinazione, in fondo al mercato del pesce. Anna sperò disperatamente che la porta introducesse in un cortile e bei giardini, per quanto pieni di erbacce e abbandonati, con una bella casa in mezzo al giardino, sulla riva del fiume, il più lontano possibile dagli odori e dal rumore del mercato. Ma quando la porta si aprì stridendo, si trovarono in una piccola stanza. Anna oltrepassò la soglia e tutte le sue speranze svanirono. Il posto era molto buio perché non c'erano finestre. A mano che si abituavano all'oscurità, i suoi occhi afferravano i particolari. La mezza luce della porta rivelava i resti di stuoie sporche sul pavimento, un tavolo a cui mancava una gamba, con due sedie, i braccioli delle sedie erano rotti. Con un brivido passò nella seconda stanza e anche questa non aveva finestre. Ed era persino più buia della prima. Dentro c'era solo il telaio di un letto cinese che occupava tutto lo spazio disponibile. Sul letto un materasso. Anna indietreggiò, disgustata, un epitome mutilato di qualche lazzaretto. Alla mente si presentarono immagini di corpi contorti ed emaciati, mutilati dalle ferite, e respirò a fatica. I muri erano ricoperti di muffa, c'era odore di malattia e di degrado, non c'era cucina e nemmeno un bagno. La sensazione di nausea fu seguita da una furia cieca, come non aveva mai conosciuto. Adesso capiva lo strano sorriso del Kralahome. Ma anche se in preda all'ira la sua mente funzionava abbastanza chiaramente da capire che questo oltraggio non dipendeva da lui. No, si trattava di un'idea del re. Lei lo aveva ostacolato e lui aveva contrattaccato. Benissimo. Si girò, prese lui tra le braccia e uscì a precipizio dalla casa, superando i tre scalini con un salto. Senza voltarsi indietro, fuggì. Fu fermata da una folla di uomini, donne e bambini che attorno a lei curiosavano a bocca aperta. A piedi nudi, mezzo svestiti, puzzavano come animali. Si fermò, ricordando anche troppo chiaramente l'esperienza con i carcerati. Con un senso di disgusto si girò per tornare sui suoi passi. La sua guida, offesa, arrivò sbuffando e lei gli fece cenno di ricondurla alla barca. Mentre si preparavano ad andarsene, la gente si fece più vicina. Alcuni allungarono timidamente una mano per toccare la pelle di Anna, che a questo punto si sentì grata per la protezione che la presenza del messaggero del re le dava. «Presto, presto!» gli disse mentre accelerava il passo. 10 minuti più tardi superarono i cancelli e, disgustati, si lasciarono i sobborghi alle spalle. In barca, per tutto il tragitto fino al palazzo, la guida rimase all'imbocco del padiglione di legno, fissandola. La maschera che il tempo gli aveva disegnato sul viso non mostrava alcun segno di intelligenza umana o di sentimento, come una gargoyle. Anna non avrebbe saputo dire se l'espressione sul suo viso significava rincrescimento o scherno o se era pietrificata così e non significava nulla. Con suo grande sollievo, quando arrivarono all'attracco, l'uomo non scese dalla barca. I rematori si allontanarono e Anna e lui videro il suo sorriso scomparire in distanza. Senza por tempo in mezzo, Anna si recò dal Kralahome. Il suo furbo sorriso divertito provocò di nuovo la sua rabbia. Con poche parole brusche gli spiattellò quello che pensava degli alloggi messi a disposizione dalla munificenza del re e annunciò fermamente che niente l'avrebbe indotta a vivere in quel ghetto. Dal pavimento su cui era seduto la guardò con fermezza e senza togliersi la pipa di bocca dichiarò che niente le impediva di restare dov'era. Con uno sforzo di volontà Anna trovò la voce per affermare che né il palazzo né il mercato del pesce erano adatti, che insisteva perché venissero rispettati gli accordi, che voleva un alloggio confortevole e indipendente in una zona rispettabile. Con movimento ozioso, lui si alzò con l'ombra di un sorriso. Anna si accorse che la sua rabbia era servita solo a divertirlo. Chi era lei, dopo tutto, se non un inglese senza importanza particolare in un paese in cui lui era l'eminenza grigia? Le ginocchia le si piegarono per un'improvvisa debolezza. Con il tono che avrebbe usato con un bambino petulante, il Kralahome disse: «Non si preoccupi, signore, non preoccuparti, prima o poi le cose si sistemeranno». E si ritirò nella stanza interna. La testa le martellava per il dolore, non riusciva a scacciare le lacrime. Sconfitta e sofferente, si trascinò nelle sue stanze e disse a Bibi e Monshi di smettere di preparare i bagagli. Aveva le pulsazioni accelerate e la gola le bruciava. Febbre! Si buttò sul letto esausta per l'emozione e per la malattia che si avvicinava.